E allora adesso vi mandiamo in streaming, in questo scambio, la radio web di Napoli, Radio di Massa. È in corso una trasmissione del collettivo femminista Le Degeneri e quindi ascoltiamo adesso un pochino loro. Commovente, parlavamo di violenza, violenza psicologica, violenza delle immagini, violenza fisica. Abbiamo appena letto dei brani dal libro Il cacciatore di anime di Virginia Spada e ne stavamo appunto iniziando a parlarne. Ci chiamate appunto a metà di una lunghissima diretta radiofonica che ha visto riunirsi intorno ai microfoni donne e compagne del territorio campano per riflettere insieme di diverse tematiche. Abbiamo parlato intanto del ruolo che le donne stanno avendo nei movimenti, perché se in passato, interrogandosi su questo, le donne in lotta lamentavano una posizione marginale, i famosi angeli del focolare o del ciclostile, parafrasando vecchi volantini, oggi assistiamo non solo a una fase di partecipazione attiva delle donne, ma anche, scardinando il luogo comune per cui però il modo di lottare delle donne è diverso, più mansueto per certi versi, assistiamo ad un processo per cui sono gli stessi corpi a opporre resistenza attiva agli scempi che per esempio il potere tenta sui nostri territori. Mi riferisco chiaramente al movimento NOTAV, cui abbiamo visto che anche voi lì da Roma avete fatto largo riferimento da stamattina, anzi da stanotte, ma non solo, perché noi qui in Campania con Terzigno, che è l'esperienza che abbiamo portato diciamo come prima, abbiamo avuto già una prima esperienza di appunto nuova modalità di partecipazione delle donne in piazza, che si sono viste in prima fila e completamente in gioco nella lotta. Tutto ciò è chiaramente taciuto dall'informazione mainstream che racconta le cose in modo distorto. Ho sentito che anche a voi non è sfuggito il trafiletto di Io Donna, per dirne una. Noi abbiamo fatto anche su quello diciamo diversi interventi. Si impone quindi anche una riflessione sull'informazione. Intanto per chi si è collegato da poco, ricordo che siamo in diretta dalla regia di Radio di Massa, una radio che fa mediattivismo sul territorio campano e che trasmette di giorno dallo spazio di Massa occupato a Lettere, la facoltà di Lettere e Filosofia, e di notte dal laboratorio occupato SCA, che sta in pieno centro storico. Una radio che non ha mai trascurato le questioni di genere, e non le ha trascurate non perché vogliamo essere diciamo politically correct, evidentemente, ma perché in maniera del tutto naturale alcune attiviste napoletane hanno sentito a un certo punto l'esigenza di prendere parola come donne, prendere parola sulle questioni della politica, sulle questioni della lotta, per intervenire e scardinare i discorsi cosiddetti dominanti. Per fare questo lavoro occorre chiaramente mettersi in prima fila, costruire spazi di informazione e farlo proprio parlando dai luoghi di subalternità, che per noi sono innanzitutto i nostri corpi sessuati di donne. Corpi che mettiamo in gioco sempre, non solo quando c'è da difendere l'orto del femminile, ma anche, come cercavo di spiegare prima, al fianco dei compagni, dei migranti, delle migranti, contro un intero sistema che tende invece a dividere, ghettizzare e sfruttare in virtù del profitto. Il protagonismo delle donne nelle piazze è evidente oggi in tutte le manifestazioni ed è stato evidente anche, così introduciamo pure il tema che stavamo appunto per affrontare, durante la primavera araba. Abbiamo la fortuna di essere in collegamento con Ines Crack, una rapper, la prima rapper tunisina che ha partecipato e si è fatta voce del movimento tunisino la primavera scorsa. E niente, pronto, ci senti? Sì, sto parlando. Ok, noi ti sentiamo benissimo. Vai, presentati, la parola a Ines Crack, prima rapper tunisina. Ciao, sono Ines Crack della Tunisia. Mi presento, sono la prima donna che fa rap in Tunisia, vi saluto tanto. La donna nella lotta in Tunisia è molto importante, perché in questo periodo ci sono tanti problemi che fanno della donna un ruolo importante per la lotta della libertà della donna, per l'egalità tra l'uomo e la donna in Tunisia e anche che cerchiamo di essere uniti e di fare tutto quello che potremo per rendere questa libertà realtà. Dopo le elezioni, la Tunisia si è divisa in due.